Ed è così che si conclude. Ed è così che si conclude un'altra stagione. E arriva l'autunno, le foglie cambiano colore, accompagnate dal vento, cadono lente, adagiandosi al terreno e bagnandosi da questa fitta pioggia. Ed è così che io, albero ormai spoglio, rimango solo. Ed è così